Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. 50 anni fa, era il 20 maggio del 1970, il Parlamento approvava una legge importante per molti aspetti di rilevanza storica. Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. È lo Statuto dei lavoratori. Ne parliamo questa sera, cari ascoltatori, in compagnia di Giorgio Benvenuto, che è stato a lungo segretario generale della UIL, poi segretario del Partito Socialista, nonché ex senatore eletto nel 2006 nel gruppo dei Democratici di Sinistra, e ora presidente della Fondazione Buozzi. Buonasera e bentornato, Giorgio Benvenuto. Buonasera. Lo Statuto dei lavoratori nasce all'interno delle grandi rivendicazioni operaie e sindacali a pochi mesi dalla strage di Piazza Fontana a Milano, che inaugurò nel nostro paese la tragica stagione della strategia della tensione. Ma già all'inizio degli anni 50 del Novecento, lo storico leader della CGIL, Giuseppe Di Vittorio, si era più riprese battuto per ottenere misure a protezione del lavoro. L'Italia, che usciva dal secondo conflitto mondiale, era un paese distrutto, in gran parte caratterizzato da un'economia a struttura agricola che nell'arco di alcuni anni si trasformò in una realtà industriale a tutti gli effetti. All'approvazione dello Statuto dei lavoratori concorsero tre personaggi di spicco: il socialista Giacomo Brodolini, ministro del lavoro nel primo governo Rumor nel 1968, Gino Giugni, anch'egli socialista, espressione della società civile, presidente della commissione che formulò le norme, Carlo Donat Cattin, democristiano di sinistra, ministro del lavoro che portò prima il Senato, poi la Camera ad approvare la legge, con l'astensione dei comunisti. Giorgio Benvenuto, nei suoi tratti salienti, lo Statuto dei lavoratori prevede piena libertà di opinione, maggiori garanzie e tutele nei luoghi di lavoro, diritto di associazione e di attività sindacale, fino al controverso articolo 18 in materia di licenziamenti e reintegrazione del posto di lavoro, già riformato dal Jobs Act, per finire con le norme sul collocamento. Ora, e questa è la domanda, a 50 anni di distanza con il mercato del lavoro, che come sappiamo ha subito profonde trasformazioni, soprattutto in seguito all'avvento delle nuove tecnologie informatiche e digitali, è convinzione comune che quelle norme abbiano bisogno di essere riviste. È d'accordo su questo? Oh sì, certamente, perché la situazione è cambiata. Basta un dato per tutti, che quando venne approvato lo statuto il 20% di chi lavorava erano impiegati o quadri, e l'80% erano operai che erano inquadrati nelle categorie più basse e lavoratori nel settore dell'agricoltura. Oggi i rapporti sono molto cambiati, il lavoro dipendente non è con quella maggioranza che era prima, insomma la società è profondamente cambiata e quindi è necessario immaginare delle modifiche che evitino quello che sta avvenendo praticamente oggi, che ci sono dei diritti, delle salvaguardie che vengono applicate per una parte del mondo del lavoro, e poi c'è una parte rilevante di lavoratori, penso a tutto il mondo del precariato, che non hanno delle forme di tutela. E poi c'è anche un altro elemento su cui riflettere, è che non c'è una valorizzazione forte della professionalità, e noi abbiamo molti giovani, ragazze e ragazzi, che hanno titoli di studio e vanno via dal nostro paese e trovano lavoro, soddisfazione per la loro professionalità in altri paesi dell'Europa e del mondo. Quindi bisogna che questo strumento importante, che ha rappresentato una svolta profonda nella storia del nostro paese, tenga conto di una realtà profondamente mutata, di un cambiamento importante in Italia, ma anche negli altri paesi che una volta venivano definiti industrializzati. Ecco, del resto, se noi torniamo a 50 anni fa, quando venne approvata la legge 300, certo, il nostro era un paese che usciva dall'autunno caldo del 69, ancora prima segnato dai movimenti di protesta studenteschi del 1968. Dunque, quella era una stagione particolare in cui si inserisce questo statuto dei lavoratori. Dunque, non si può negare che la legge 300 si inquadra storicamente in quel contesto di cui lei fu protagonista e certamente ricorda bene tutti i passaggi che portarono all'approvazione di quella legge. Sì, perché l'idea di uno statuto dei lavoratori è una vecchia idea, addirittura prima del fascismo Turati e Bruno Buozzi ne avevano parlato. E poi nell'immediato dopoguerra ne parlò lo stesso Di Vittorio. Teniamo conto che solo nel 1966 venne realizzato un accordo e poi una legge che impediva il licenziamento ad nutum, non esisteva la giusta causa. E quindi lo statuto dei lavoratori, che applicava dei diritti che erano stati preannunciati, affermati nella Costituzione, non aveva fatto un cammino veloce. E nel 68-69 certo ci fu prima una forte contestazione nel mondo della scuola, nel mondo delle università e poi anche all'interno delle fabbriche, venne contestato anche il sindacato. Lo statuto dei lavoratori ebbe una grande importanza perché riconobbe i diritti, ma dette forza anche al sindacato, cioè i diritti individuali poi trovavano una loro soluzione, diciamo, attraverso il sindacato, cioè permise al sindacato di affrontare la contestazione e di trasformare la protesta in proposta. Non fu facile, e fu perché esistevano opinioni diverse, i sindacati avevano raggiunto una loro unità, ma dovettero rimettere in discussione se stessi in quella vicenda dell'autunno caldo. Ma che cosa avvenne? Che la legge ebbe un cammino parallelo con quella che era la vicenda di carattere contrattuale, l'autunno caldo, come è stato chiamato, perché erano scaduti i contratti di quasi tutte le categorie dell'industria, e molte delle norme che sono state contenute nello statuto dei lavoratori vennero anticipate nella mediazione, nell'intervento che fece il ministro Donat-Cattin, che era succeduto a Brodolini, morto prematuramente, che aveva impostato lo statuto dei lavoratori. E di fatto è una legge diciamo quasi di sostegno e di rafforzamento di quelle che erano state le intese di carattere contrattuale e di rafforzamento del sindacato, che cambiò, diventò un sindacato autonomo. In quegli anni venne aperto il discorso dell'unità sindacale, venne definita la incompatibilità tra incarichi sindacali e incarichi politici, e poi le vecchie commissioni interne vennero sostituite dai consigli di fabbrica, e così lo statuto ebbe, grazie anche al lavoro di Gino Giugni, un giurista, un giuslavorista molto intelligente, molto moderno, che si era battuto prima con Brodolini e poi con Donat-Cattin, diventò una legge che rafforzò il sindacato e lo portò ad avere, a dare uno sbocco a questa contestazione che era stata forte. Io mi ricordo che noi ci trovavamo di fronte agli scioperi selvaggi nella vicenda di carattere contrattuale. È interessante anche leggere i commenti che sono stati fatti rispetto a quegli anni. Io ho apprezzato delle dichiarazioni che ha fatto per esempio Luciana Castellina, perché lo statuto, quando venne approvato al Senato il 12 del mese di dicembre, poche ore prima che scoppiasse la bomba a Piazza Fontana, non ebbe il voto favorevole né del Partito Comunista, né del partito del PSIUP, né della sinistra indipendente, né del Movimento Sociale, che si astennero. E ricordiamo che allora l'astensione al Senato equivaleva a un voto contrario. Ecco, grazie Giorgio Benvenuto per essere stato con noi, per averci condotto a 50 anni fa, quando appunto venne approvata questa importante legge, lo Statuto dei Lavoratori. Io ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia, Luca Cremonese in redazione. Buona serata a tutti, cari ascoltatori, appuntamento alla settimana prossima.